Letture di Radio 24. Lo scorso 14 novembre, in occasione della Festa dell'Unità Nazionale, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha parlato delle nuove minacce che incombono sull'Europa e sull'Italia e ha identificato nell'estremismo internazionale, in particolare quello islamico, la fonte principale di minacce alla nostra sicurezza. Napolitano ha spiegato che l'Italia deve dotarsi di mezzi di difesa adeguati se vuole fronteggiare il pericolo. Ma la nostra politica di sicurezza è coerente con la diagnosi fatta dal Presidente? Sembra di no. Anche con la nuova legge di stabilità si sono introdotti nuovi tagli al bilancio della difesa. Esigenze della spending review? In realtà sembra che quella militare sia l'area o ambito dello Stato in cui le resistenze corporative ai tagli risultano meno potenti. È più facile tagliare il bilancio della difesa che quello delle regioni. È più facile, cioè, tagliare le spese del warfare, di preparazione alle guerre di difesa, che quelle del welfare. Il risultato è che proprio nel momento in cui si manifestano sfide internazionali potenzialmente devastanti per la nostra sicurezza, rischiamo di ridurre ancor più di quanto abbiamo già fatto nel recente passato l'efficienza e la funzionalità delle forze armate. Queste le parole di Angelo Panebianco nel suo editoriale pubblicato il 14 novembre sul Magazine 7. Il lunedì successivo, all'indomani della decapitazione del quinto ostaggio da parte dell'ISIS, Panebianco torna sull'argomento e nell'articolo di fondo del Corriere della Sera sottolinea come in Italia i pericoli derivanti dagli estremismi internazionali non vengano ancora presi sul serio. Sembra che una gran parte, forse la parte maggioritaria, dell'Italia pubblica soffra di un blocco cognitivo. Pare incapace di prendere atto dei radicali, irreversibili cambiamenti intervenuti in Europa e in Medio Oriente. Ha l'aria di non rendersi conto che violenza e crescenti rischi di violenza si diffondono intorno a noi. Sembra non capire che di fronte alla violenza non si può altro che assumere una posizione intransigente o anche, se la situazione lo esige, fare uso della forza. Un tempo si credeva che la propensione italiana a pensare alla politica internazionale come a un luogo in cui tutto possa essere risolto con il dialogo fosse solo una conseguenza della Seconda Guerra Mondiale. Le potenze sconfitte, Germania, Giappone e Italia, si disse, sostituirono nel dopoguerra il commercio alla spada. Cominciarono a pensare alla politica internazionale molto più in termini di affari che di deterrenza e di minacce armate. E il dialogo, sicuramente, aiuta gli affari più della deterrenza. Pur facendo parte di alleanze militari, quei tre paesi furono ben lieti di delegare ai soli Stati Uniti il compito di agitare periodicamente il bastone. Ma forse, nel caso italiano, c'è di più. A causa della sua cultura politica, sembra che l'Italia, pur con qualche meritoria eccezione, non riesca proprio a fare a meno di agire nell'arena internazionale, ispirandosi a una sorta di wishful thinking, un'irresistibile tendenza a scambiare i propri sogni per realtà. Ormai continuamente il califfo ripete che prima o poi arriverà a conquistare Roma e il fotomontaggio di una Roma in cui sventolano le bandiere nere dello Stato Islamico circola da mesi in rete. Chi fa spallucce, chi pensa che si tratti solo di una sbruffonata, ha capito ben poco. Mai come in questo caso è lecito dire che l'ignoranza uccide. Già, perché il califfo non sta facendo una sbruffonata a caso. Sta citando niente meno il profeta. Sta citando il detto attribuito a Maometto, secondo cui arriverà un giorno in cui Roma, il centro della cristianità occidentale, cadrà in mani islamiche. Tanti musulmani di tendenze pacifiche hanno sempre pensato a questa profezia, proiettandola in un futuro lontano e indefinito. Invece, lo Stato islamico sta dicendo ai musulmani di tutto il mondo che il momento di prendere Roma si avvicina e che questo verrà fatto con le armi. Diciamo che fischiettare o fare spallucce di fronte a una dichiarazione di guerra non sono gesti appropriati. Ha ragione il ministro della Difesa Roberta Pinotti quando invita la classe politica a non trattare le forze armate come se fossero un qualunque settore di spesa pubblica improduttiva, da sottoporre a tagli anche a costo di indebolirne le capacità operative. Le nuove minacce, dallo Stato islamico al caos libico, richiedono che non si facciano scelte miopi e autolesioniste in un così delicato settore. C'è uno scollamento preoccupante fra la realtà e le narrazioni pubbliche su di essa. Ridurre il divario fra il mondo com'è e la nostra rappresentazione del mondo è essenziale per la nostra sicurezza. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Angelo Panebianco, Il Califfo a Roma? Non è uno scherzo. Dal Corriere della Sera del 17 novembre. Letture di Radio 24. A volte l'esigenza di difendere le donne da ogni forma di discriminazione si trasforma in una sorta di indignazione permanente, in un desiderio smodato di trovare un pretesto qualunque per sentirsi offesi e mandare alla gogna il presunto maschilista di turno, con il rischio di sfiorare il ridicolo e contrabbandare l'intolleranza per ipersensibilità. Come racconta Massimo Gramellini parlando della disavventura capitata nei giorni scorsi a Matt Taylor, uno degli scienziati che ha contribuito alla missione Rosetta. Ma cosa avrà fatto di male Matt Taylor, l'uomo capace di portarci su una cometa per ridursi in lacrime a chiedere scusa al mondo intero? Si è presentato in conferenza stampa con una maglietta che aveva delle pin-up disegnate sopra. Tanto è bastato perché una sua collega trasecolasse e i bacchettoni del quotidiano inglese Guardian le scodinzolassero dietro, accusando lo scienziato di misoginia. Mentre Matt, felice come un bambino, indicava la cometa, i chirichetti delle buone maniere gli guardavano il dito, anzi il braccio tatuato e la Miss cafona ma inoffensiva. La notizia mi ha scosso, e non solo per l'evidente divario tra l'impresa di Taylor e l'enfasi assegnata a un elemento marginale. A furia di stare attenti a non urtare la minima suscettibilità e di montare la guardia contro ogni presunta discriminazione, ci siamo ridotti a custodi di un formalismo sterile, che non sa più distinguere gli oltraggi dai cazzeggi. Si vive in uno stato di indignazione permanente, smaniosi di rimanere offesi da tutto e di contrabbandare l'intolleranza per ipersensibilità. Quella camicia fa proprio schifo, Matt, ma sarei disposto a morire per difendere il tuo diritto di indossarla. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Massimo Gramellini, Terra Terra, dalla stampa del 18 novembre. Ancora più assurdo è questo esempio di tolleranza zero verso qualunque espressione che possa essere interpretata come razzismo. Un'alunna di una scuola di Adria in provincia di Rovigo è stata sospesa dalla frequenza delle lezioni perché nel corso di un incontro sull'immigrazione organizzato dalla Caritas presso l'istituto scolastico ha detto che gli immigrati fanno morire di fame chi è nato in Italia. La notizia mette in evidenza, se ancora ve ne fosse bisogno, la totale resa dell'istruzione pubblica italiana rispetto al proprio ruolo. Ce lo immaginiamo uno studente sospeso dall'attività didattica perché non sa svolgere un compito di matematica? O ancora un ragazzo allontanato dalla scuola perché crede che La Cavallina Storna sia un'opera di Omero? Come reagiremmo davanti a questa notizia? Probabilmente penseremmo a una bufala, o comunque concluderemmo che chi li ha sospesi non si rende conto di quel che ha fatto. Il razzismo e in genere ogni forma di intolleranza si prevengono e combattono prima di tutto con l'istruzione e l'educazione. Chi pronuncia frasi del genere, evidentemente, non si è mai fermato a ragionare sul loro reale significato. Le ha prese come buone perché sentite alla radio, in TV o perché lette sui giornali. Se già a livello generale non ha senso punire qualcuno per quel che ha detto, la libertà d'espressione non è un baluardo della vita democratica? A maggior ragione, non lo ha in casi del genere, visto che molto probabilmente chi ha parlato non sa nemmeno cosa ha detto. Ma poniamo il caso che la studentessa avesse piena coscienza delle proprie parole. Non sarebbe forse stato meglio metterla nelle condizioni di studiare per capire, piuttosto che allontanarla dalla scuola, lasciandola così nell'errore? Non esiste più l'insegnamento dell'educazione civica? Sospendere un alunno che non conosce le nozioni di base di una materia di insegnamento non è forse una resa rispetto ai propri stessi compiti? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandro Gallucci, sospesa da scuola per aver detto una stupidaggine, la resa dell'istruzione pubblica, pubblicato il 18 novembre sul sito dell'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori. Secondo dati recenti sulla dispersione scolastica, uno studente su tre abbandona gli studi. È importante programmare interventi nel rapporto scuola-lavoro e aprire le scuole al territorio, come commenta Simona Malpezzi in un articolo pubblicato sulla rivista L'Inchiesta. uno dei modelli da seguire è quello tedesco, che fa registrare la disoccupazione giovanile più bassa in Europa. I numeri forniti in un approfondito dossier dalla rivista Tutto Scuola sulla dispersione scolastica negli ultimi 15 anni indicano chiaramente una delle cause delle crisi del nostro paese, soprattutto per quel che riguarda il dato delle isole. Con il 35% nelle sole Sardegna e Sicilia, assistiamo ad una vera e propria emorragia che determina gravi conseguenze sociali e si lega in modo evidente al fenomeno dei NEET. I giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che nemmeno seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale. Nel nostro paese questi ragazzi sono più di 2 milioni, e cioè il 23,9%. Negli ultimi 15 anni ha abbandonato la scuola il 31,9% di studenti delle superiori, in pratica uno su tre. La dispersione si concentra soprattutto negli istituti professionali, con un 37%, e negli istituti tecnici. È evidente come questo fenomeno si sia rapidamente trasformato in disoccupazione strutturale, una componente che nemmeno i contratti più flessibili riuscirebbero a inserire nel mondo del lavoro, con conseguenze a catena anche dal punto di vista pensionistico. Per combattere questo drammatico fenomeno, la strada c'è. Programmare interventi a tutto campo nell'ambito del rapporto scuola-lavoro per rendere quanto più competitivi possibile gli attuali e i futuri lavoratori. L'obiettivo evidente è quello di aumentare il livello di competitività e di occupazione. Solo investendo in questo settore potremmo tornare a crescere. Dobbiamo rafforzare le buone pratiche di percorsi di studi professionalizzanti e qualificanti, potenziando l'alternanza scuola-lavoro e promuovendo nuove sinergie tra aziende, territori e formazione. L'apertura delle scuole al territorio e la contaminazione tra capacità e attitudini dei ragazzi e competenze da sviluppare per incontrare il mercato del lavoro è la premessa da cui partire. I modelli a cui guardare sono quelli già sperimentati con successo in alcune regioni italiane, oppure quello duale tedesco, che fa registrare la disoccupazione giovanile più bassa d'Europa e che è stato imitato dalla provincia di Bolzano, in cui le aziende sostengono parte dei costi della formazione professionale e partecipano in modo attivo alla formazione degli studenti, che riescono poi ad inserirsi per il 98% nel mercato del lavoro. L'apprendistato in Germania permette di effettuare l'intero percorso di istruzione, essenzialmente dalla scuola secondaria alla laurea, in alternanza tra studio e lavoro, costituendo il ponte di cui anche i giovani italiani avrebbero bisogno per transitare dalla scuola al lavoro. Questo sistema sembra il più efficace strumento di accesso al mondo del lavoro e di sostegno all'inclusione sociale. La strada tracciata nel rapporto La buona scuola e i fondi stanziati nella legge di stabilità rappresentano il primo passo verso una riorganizzazione del sistema. Nessuna vera riforma del lavoro potrà essere davvero efficace se non sapremo farla dialogare e interagire con una riforma complessiva della formazione professionale. Essa viene incontro da una parte ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende, dall'altra alle esigenze dei giovani di acquisire competenze e dei lavoratori di mantenersi aggiornati rispetto ai continui cambiamenti del mercato. Secondo la strategia europea 2020, l'apprendimento va considerato uno dei motori essenziali dello sviluppo. Quindi, pur riconoscendo le difficoltà di reperire fondi aggiuntivi, dobbiamo necessariamente investire sulla formazione, incrementando sinergie che producono ricerca e innovazione, sviluppo e occupazione. Purtroppo, la formazione professionale è utilizzata come canale di serie B destinato a giovani emarginati e non è mai stata valorizzata nei collegamenti virtuosi con il sistema produttivo del territorio. Ma come possiamo favorire l'ingresso dei ragazzi nel mercato del lavoro, creando dei percorsi virtuosi che tendano a scardinare il concetto che l'istruzione tecnica è di serie B rispetto a quella intellettuale di serie A? Nella fase attuale, e per fare in modo che si fermi la crescita dei giovani inattivi, è necessario focalizzare l'attenzione sui ragazzi che frequentano la terza media, orientandoli anche al sapere professionalizzante, indirizzandoli e accompagnandoli in questi percorsi. Introdurre l'alternanza scuola-lavoro obbligatoria e rilanciare il contratto di apprendistato in tutte le sue forme. In questo modo si sostengono sia i giovani sia le aziende, che in questo momento hanno bisogno di forza lavoro da impiegare per uscire dalla crisi. L'alternativa è quella di continuare a impedire la ripresa economica ingrossando le fila degli analfabeti lavorativi e ampliare il divario tra le necessità delle imprese e l'offerta di diplomati e laureati. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Simona Malpezzi «C'è disoccupazione? La scuola deve insegnare a lavorare», pubblicato il 4 novembre sulla rivista online L'Inchiesta.